Beh, ciao, grazie, riuscendo, dai, ci sentiamo domani, ciao. Ehi, ciao, buona passeggiata domani, saluta Marina, ciao. Sì, ricambia con Paoletta anche da parte di sua, ciao, grazie. Ehi, ciao. E beh, bello beh. Dormi, dormi, che mamma ha fatto gli gnocchi, bella beh. Cosa gli stai combinando? Boh, ma sei più da farato, sì. Io ero in giro, bello beh, ieri a pancia. Mi sembra che ti ho mandato qualcosa né, su WhatsApp, boh. I gamberoni mi hai mandato, dai, già li ho visti. Mi lascio più maturi io, mi lascio più maturi. Certo, pare tu due buoni del mare, lui che ci faccio. Ma che sono buono davvero, vrecchi, non so più che altro, oggi Brodino, a digiri. E cos'è che hai mangiato, rimani, ieri festa ieri, no? E gli ha invitato all'agriturismo, Alghero Corsa, ma ne ha di tutto, vera, carri, pesci, borcetta, agnone, e cos'è che non qui? Un bel mangiato. Ma tu hai mangiato, poco hai mangiato. Ti ha già mangiato, pari non ha già mangiato, e ha già mangiato un po' di tutto, non ha già mangiato. Un poco di tutto già me l'ha mangiato, ma un poco di tutto è un bel matese, va via la batta canta un tamburo puro cazzo. È un dire che su agroturismo e gallo guè sulla strada tra Alghero e Bosa rimane, adesso non mi ricordo, però è su quella strada lì. Ho capito dov'è. Dove c'era il tantà una volta, lì c'era il tantà una volta. Non me lo ricordo cosa aveva ieri, però già si stava bene, si mangia burro, anzi, i chivi te ne date ne canto di voi, un era andato la sabuccia Alghero per andare verso le grotte di Nettuno. E che mi ti arricchiava a leggere un piatto, invece non che ti arricchiava a bruciare i fasoli e ti rimbunicavano le voi. E poi non che quando li domandavi ti arricchiava a leggere i fasoli, ti dà un piatto noi usciamo, a rompremo che era andato. E poi forse che ormai era di teci e chi so faceva la vita al regalato, chi se lo da mangiare, la pure buona la sabbaccia, ma saluti. No, non mi piace le macchie, infatti noi che abbiamo mangiato assai bene, come ti mangiano non mi piaceva le macchie, ma e poi i piatti non erano anche ben pieni, da si può presenti vedrai che si causa di farsi via la televisione. Vorrei un chicchinito di rubiato, un brutale rubiato e buh. Poi ti sei abbuffato allora? Ma che bevuto hai o no? Acqua, hai bevuto vino? No, il vino è la ragosta, quello che piace a me. Mi pare che ti ha mandato un bruvizio, l'ampulla di rubino. Con la ragosta del signore. E tu costa un po' per buono. Quando faceva l'autista gli capitava che lui la zona di Larina, sempre me lo prendevo. Se era andato alla cantina Santa Maria la Palma e lo comprava a cassetto. E costa pure un bel. Ce l'ho una bottiglia. Ma mi sembra che c'ha almeno 15 o 20 anni questa bottiglia che ce l'ho. Di Aragosta io. Cazzo, affinaggio di divino, oggi mai a beccia, mai, è sulla vetrinetta, almeno 20 anni ce l'ho quella bottiglia, e senz'altro sarà adesso invecchiata e ci appendere, ma è canivise, vieni venire, l'Aragosta è un bel vino, cazzo, Poi in quella zona ci dovrebbe essere anche vino a Imbarcador, anche quello, sono vini buoni, vini che facevano in coso, il Travariglio, imbarcatore si scavava, cazzo, sembrava Marzala, cazzo. Io andavo lì a Santa Maria La Palma quando va via un camion, quando era con Tumiu, e mi davano viaggi da fare di quel vino lì, di quelle altre marche anche, però sempre di Santa Maria La Palma. E gli facevo le consegne ai ristoranti, agli agriturismi, agli alberghi, alle pizzerie dove te le mangiavi lì, capito? Facciamolo procurato anche qualsiasi vino là che mi davano loro. Cacchè di mezzo piace, però se no diciamo Napoli, capito? E mi da di anni ha preso buono, capito? E lo prendevo per quello, ma era buono a vino. È buono, ma non è che ci fa pazzo, no? Perché mangiando secondo cosa mangi, vabbè, un bicchiere di quella roba va benissimo, ma cosa mangi quello lì non va bene, ci vuole attimo se fermentino, gatta, appena frizzante, più ne beve più ti piace, quello è buono, gatta. Ma la cosa, vabbè, la cosa può mangiare quando sai mangiato polpi, roba del mare, capito? Io mi faccio da bui a ciar busto alla vita, la punta cosa di mare, no? Mi bussava i chivi, la ferandina e vaghi, spazia, in alluminio, con gli alatturi, c'è sempre quello. I pochi chili e tirati su di giù, la focaccia, al taurino e poi il chilo che vuoi. Con quella focaccia mi compravo sempre la bottiglia della ragosta e poi così parava a bermi. Oh yeah, mia focaccia, e poi buona. C'è ciò che piace, ci sono anche persone che non piace, come per esempio come si chiama quell'altro vino che fanno a coso, a Cabras, Laurisano e Cabras, come cavolo si chiama, là. Ma fanno a certi vino, ma sono speciali. Vendo dal proprietario, è tutta un'altra cosa, magari vai al bar, bevi un bicchiere di quello e cambia tutto il sapore, cazzo. Ah, Pannapro, come si chiama quel vino, cazzo, che mi sia, cazzo. È superiore come la ragosta, capito? È superiore come la ragosta. Non mi viene in mente adesso, grazie, quell'altro vino che è lì, lo producono lì, ecco. Io ho lavorato in tante cantine a fare le consegne del vino, ho lavorato alla cantina di Marrubio, poi anche dal Cagliaritano, in vari paesi dalle cantine di lì. Caricavo il vino e andavo a fargli le consegne, capito? E me l'avevo procurato una visa e mandati una ghetta in giro e mi cugnato a questa gente così, a buscarci lavoro e viaggi, no? E ci mettevamo d'accordo, io scendevo, caricavo e poi andavo a fare le consegne. E poi ogni mese facevamo la fattura, no? E a voglia di cucinare vino, pure a chi su li travagliava vicino tu a Cocom, non glielo portavo io con il serbatoio. La vernaccia, quello che stavo dicendo io, la vernaccia, no? Siccome c'è anche una cantina, fa la cantina, però dal proprietario, quello della cantina, cambia parecchio, cambia. Se tu assaggi della vernaccia proprio di proprietà, ma ha un sapore, che è una meraviglia, capito? Già è buona anche quella della cantina, non c'è da dire niente, però è più buona quella del proprietario, capito? E Arborea, usavo la base, mi bussava in nata l'autobotte, quando caricavo, era la manichetta, no, punia la manichetta, e appena lo serbatoio, mi cucava a patta terra, mi ha dato così una gasata dalla macchina, dalla manichetta, chi dava la vacca a noi, tutti in breaghiera, oh yeah. Ma da cancellavo uno. Beh, chiatta. Io quando frequentavo lì con la Tosco Sarda a Orisano, siccome noi avevamo la corniceria, no, della Tosco Sarda, e quando andavamo a mangiare sempre vernaccia, a gran carriera, ma per roba di proprietario, capito? Già ripeto, è buona anche quella della cantina, però quella là è favolosa perché ci mettono tutti gli impegni proprio per essere perché la bevono loro, capito? Non la danno, la bevono loro, così che a noi ce la davano. La giuvigio di vino ne ho fatto di cantina, anche la cantina di Monti, la cantina di Berchita. Un bel di cantine io ho fatto viaggi, andavo, caricavo, mi davano le consegne, andavo, lo consegnavo. E me ne procuravo anche a cartoni, di vino. A voglia di me ne ho procurato quel periodo lì. Anche i liquori, il cinare lo caricavo lì alla Buttibucci, dove c'è quel villone grande. Sotto il villone, lì sotto, c'è lo scantinato, quanto è manna la villa. Ed è un deposito di cinar, lì caricavo il cinar. Uno o due gacetti me li procuravo di cinar, di amarocinarmi. E andavo e facevo le consegne ai villaggi turistici, agli alberghi, così. Così che già li assaggiati. Anche noi, siccome trasportavamo quadri antiquariato, capito? E per cui già ti facevo bene le cose, mangiare bene in quei paesi, certe mangiate che non finivano mai, per carità, però prima si poteva mangiare tanto e bene anche un po' di più. Però cosa mangi? Non puoi bere, capito? Prima si buscava un bel di roba, un bel, o dai magazzini, o carrighenni, oppure qualche truffardella, ai clienti, buscavi un bel. Una volta che è uscito il computer, è calata un bel la cosa, non ci riuscivi, era difficile un bel a buscare merce. Però prima di esserci compiuti, conosco niente, i salvatori di là, e aveva fatto la villetta, e si sono pure ritirati. Un bel, amici miei, faziani di suo travaglio. E ora di questo quasi ultimo, gli trucchetti, però in quel periodo già era sempre un buono, sempre qualcosa me la procuravo. Prima si buccava un bel di cosa. Prima si buccava un bel di cosa, ma che è un po' difficile. Ma che capitava, se la deve, contro gli allogrini, ma prima mi era un bel, per cui non per la mattina, ma la sera ne abbissina la cosa, sicché era tanti, c'era tanti anni, capito? Per cui si buccava e la voglia. E vabbè. Allora eravamo anche giovani, ci possiamo permettere anche di mangiare parecchie cose, voglio. Ma così una cosa, un lune, catta, in su monte, per un agroturismo che non finì più, catta, e noi mangiamo di tutto, pure un po' fuori, io faccio mangiare io. Nel Norese non ne va vedemo, nelle oliatra. A me mi conosciano tutti, ma ne ha da rete mi va via, nei paeselli dispersi anche. E poi non erano neanche agriturismo, queste erano case di privati. Però ai turisti, alla gente di fuori si vuole mangiare, zuccava una gianna, domandava, mi bussa da tia Maria, bussa lì, ti vasi a entrare, mangia da rete, ti vasi a va. E pagavi due cinti, capito? E poi mi andavi a burro a quattro anni, che imbriaco con la valla, ti la poi ti buoni tutti, la pulla del ferro, buffa viso mio. Poi sono timbragone, gatto, prima. Tutti imbragoni erano prima, gatto. Ehi, da Mario ormai stessa a Nuoro, quello era un ristorante, proprio nel Nuorese vecchio, nella città vecchia. E dici, come se mi vedia, mi appareciava la banca, di tutto mi puniva andare alla banca, a mangiare tutto questo che puria. Tu mi imbriaghi. Però si mangiava bene. Io ho sempre mangiato bene. A Cagliari lo stesso, a Cagliari tano. Noi gli riconosciamo i posti si mangiava bene. Era un monte, era un agroturismo e un albergo. Era albergo e agroturismo. E che mi due assapaglivi e mangiavi tutto, tu non devi domandare niente, nulla. Arregava tutto questo. Da voi che avevi finito, se ne vuoi altro, che arregava gli altri. Mi dicevi, altro ne volete. Ti rifatia le cellucci. Catta, ma un monte dove era tutti i bini che si occhirano. No, ben ammetto che un monte si chiama che su, vesina oliena, vesina oliena. La girata oliena Roma stessi. A padre, a tia Maria, mentre mi vedeva che arriva tutto mi va già a questa signora, zuppa, la mani, no, non ricamino. Li badetti il burro mi pulia in mezzo alla banca, dismatica tutto quello che volevo. Pur se mi mangiavo tutto questo che vera, pagavi sempre che ci due cinti. E che mi rubato adesso, tia Maria mi lascia rubare il caffè. Il caffè fatto in casa, mi non fatto rubare. Una mangiata, mi arrivava la garaffa, manna con il caffè. Mica te la ricavavo la tazzina. La data da vedere, pure tu, no. Aspetta, se c'è qualcuno per entrare, avanti. No, non c'è nessuno. Ok. Tore, sentito là. Tore, devo assicurare i nipoti. A chi no, che sono da rimani. Il vicino al campo sportivo che c'è qua. Minimo di salare 4-500 bastoni, squadre di ragazzini che giocano a pallone, femmine, maschi, sono da rimani, non so cosa si fa le premiazioni, un bel ieri, i nuovi si sono apparecchiati, tutto macchine, gente con un carrello, hanno liberato la banchetta, si sono apparecchiati e hanno mangiato, fino a poco di ieri. Oh. Insomma, deve fare per abbassita allora, beh. Non si vede da qui il campetto, però si risenti, no, le voci. Un bel di squadra, da camanichizzo, insomma, sono giunti. Rimane Romatezzi, precisamente alla una di notte, era ancora lì, via, che si intende il microfono, no, l'autoparlante, cantenne, un casino. E oggi Romatezzi, pensatore era di Magnenni, che ci vanno un carruzzo, una parata, una banchetta di in alluminio, a vestito di vedi, era tutto appareciato, e tutti i Magnenni in piedi, sacchizza, gaggio, e tutti vanno, vino, birra. E dopo si imbriaca le fate del casotto. Luca Montanaro, il Parigi. No, Luca Manicomio si è fatto la doccia ed è andato a un teatro a vedere dei comici sardi. Quell'ex cinema che c'è al corso, gli auce quando si da via Rosello era un corso. Lo vedi sul cinema, vanno un momento e si chiamava. Chi se l'ha arrivato a teatro, va? Ah, cari, che fate? A un corso e a piazza di ventramento, così è. Ehi, date alla parte di un corso, non buttare i panni dopo si entrava e a piazza Colonna Mariani che bisogna ricari. Ho capito. Teatro l'hai fatto, il cinema non li so fare più i chiedi. Non te lo so dire, in cazzo, se la lì. 30 anni che non faccio più posto bene, mi piace dopo quando ero più ragazzo, va. Minimo minimo, forse è venuto più di 30 anni. Non sappia nemmeno, io pensavo che era di chiuso a radio, invece sto facendo il teatro. Sono andata anche al teatro comunale che c'è lì al corso un paio di volte, su 30 anni fa, e poi però non ci sono più andata. Adesso hanno fatto anche quel cinema a teatro. Sì, prima ci andavo molto spesso anch'io. Quando abitavo in Sassari, chiaro che ci andavo molto spesso io lì, capito? Però era solo due anni, da solo due anni, infatti sono fatto quella domanda, il teatro stanno facendo adesso, perché film, cinema, e il cinema ne hanno chiuso parecchio, hanno chiuso l'Augusteo, quello di Fonte San Giuseppe, hanno chiuso, mi sembra, quello di Viale Trento, l'Ariston, mi sembra che ci sono i moderni che stanno facendo i film, ma lì ne fanno tre o quattro film, capito? Ci sono anche i film Porcaccioni, pure ci sono, c'è la sala dei film Porcaccioni. E lì hanno fatto le multisale, mi sembra ci sono quattro sale. Tu entri dentro e da qui vedi un viando, guardate un film, o vedi film, quattro film ci sono. Una volta che entri dentro, vedi dove va a vedere il film, o vedi un Boccaccione, o vedi capi. Moderno, se infatti hanno perlomeno, così mi hanno detto, io non. Sono da parecchio che non ci vado nemmeno lì, a cinema, ma che ci andava? Frequentavo anche i Verdi molto io, certo. Da ragazzino, certo. Mi butterei di là, a mamma, certo, e a me non andava a cinema, ma un Verdi, all'ogione, certo. E l'unico che era all'ogione perché si pagava un po' che l'ogione. Oh, al Verdi e Ivi al corso, ma al corso, e il moderno e Idu, i dati che su Viale Caprero capia, e da Mabonati, babbo ogni settimana ci portava da piccolini, poi quando riusciva mi si buscava la sera verso le 9:30, passenni passenni andati a Mirazzizzo in via Usai. Ci mangiamo a Mirafaini i vivi e poi a casa via Roma. Ma da piccolino mio babbo ci portava ogni settimana. Sì, da ragazzino, noi ci andiamo in via Scano. Sai, ci andai da Rufir, tra via Ios, quella via, guarda, non me ne ammetto. Adesso Pasquale. Noi ci andiamo adesso a Pasquale, proprio all'interno, che sta via il 30, che non mi dia via Scano. No, guarda, non me ne ammetto. Via Scano, mi pare. Via Scano si chiamava. E chi mi ci andava io? L'unico era bucavo di là, me ne dava da cinema la domenica sera. A voi l'hanno aggiudicato il cinema da minoretto, che andate a me con babbo, da bizzinotte, da me quando siamo ritornati oggi salivo lo stesso al cinema. Entravo a piedi, tutti in greffa, no? C'era anche lì dove c'è il tabacchino adesso, al latte dolce, dove c'è il cavallino. Lì c'era il cinema della chiesa anche, e andati a Furibi, mi l'ha giù fatto di cinema, Rec, Smeraldo, tutti mi l'ha giù fatti, da vicino da prima andati a me al cinema, anche mi piazzia, poi in greffetta, no? Un Rec, se vera, che faceva il cinema, l'operatore era uno che c'era in Piazza Bottico, che si balassi di Gesca, e aveva rubato a Chino, chissà. E io e Damiano andavamo, tutta domenica andavo, e dai, non pagavami, la scusa che entrava nel paese, capito? E non pagavamo mai, vediamo un film, però vediamo dalla sala della proiezione, capito? Per nominamento mi ti chiamavano il denominativo, insomma, che da voi è stato licenziato e ha chiuso il cinema. a un Rex. Accidenti, non me la metto che non me la tipo, va via dei baracchini visto. Va via un baracchino e c'è la proiezione mia. Una bumera mi abbocca, fa mezza bella che dà. Anche io lì ci sono entrato molte volte, grazie, chi vede la macchina, chi mi conoscia. E anche allo Smeraldo, quello prima di arrivare a Rex, in quella traversa, non so che via è quella, dove c'è quel meccanico appena più su. Chi da me chi vi avevano fatto? Io so che avevano fatto una palestra di pugile, poi avanti non so cosa fa ancora, la palestra di pugile. Quindi erano i primi cinema. Però poi con la tecnologia sono andato in fallimento pure il cinema. Purtroppo, però già era bello. La domenica era uno svago. Poi la domenica andavo a Pizzinotti, ci chiami da cinema, andate a mia pizzeria o da Sizio o Piazza d'Italia. Ehi, per un ferroviario, ancora in pazzia di cinema. Da voi per la... i frati, i cappuccini, anche lì facevano i film, capito? Ma io vi sentavo pure gratis, se entrava. Però quando vedi a chi fermi la facendo qualcosa, morire la mano in un coso e non si riparte a vedere, ancora mi ammetto. Però io vi facevo prima di fare molti, un film era molto. Aspetta, da poi avevo cominciato a fare il sonoro e già le video mi pure il sonoro, capito? Però prima i rifratti, i fratelli, i film, i multi, capito? Ehi, come ti ripassi a Durati Rossi, vicino alla chiesa, dopo i cavallini? Padre Chiesa e Padre Cavo, non vado a niente, i film. Ma viene a Ginepresa e viene tutti i banchi, no? Tutti i fili del fondo, viene allo sfondo del mondo. E faceva anche film muti, anche sonori, i chibi mi abbaidavo. Allora i chibi aggiungo, ho visto i primi film di romani, dei romani, no? Le battaglie dei romani, di navi romane, e anche quelli di Kung Fu, di Chen, i film che hanno dato, me li ho visti lì, quelli erano sonori però, Invece Ridolini, San Leone erano muti, di Sciara Scritta. Ma i capozzini, il solito, infatti, caso vedere anche femmina facendo, vuole la mano, ma non farli vedere a Reggio, a Bissinotti, a chi non è Bissin minore, capito? Per la mano ti fate vedere, ancora mi lamento io. Lui frusci, ma i curiavi, carità. Grazie, mi assento 10 minuti, dai, già ti chiamo dopo. Vai, a sul ginocchio, ok. Eccoci qua, grazie. Si può per un controllo. Chi è? Avanti, buonasera. Per più forte di Sassari, un controllo, grazie. Sì, signor Bacchini, come mai, così presto a casa? Sei scappato, sì, per il vento, Vento, giomori, vento. Dimmi, come sto uscendo, giomori? Io ti sento bene, sei a fondo scala. Fa un altro passaggio. 2, 3, 4, 5, 6, vedi un po' come la situazione. Va bene, non è forte forte, però abbastanza pulita e anche e buona, dai. Ok, dai, chiudo il tono, stavo sperimentando. Va bene, Bacchi, tranquillo e pacifico. Sì, a che cosa ha fatto un bel lavoro, Marino, Ma mi ha dato la foto, ma ha fatto un lavoro ben fatto, Sì, ho visto, io non avevamo pensato insieme la prima volta con questo. No, è ritornato al vecchio posto. Speriamo che non li crei stazionare perché c'è lo stilo in mezzo ai radiali. No, io ce l'avevo così lo stesso che per lui, andava bene. Poi l'ho spostata perché c'era un palo libero. Speriamo che non ci abbia stazionaria. Però ha fatto un bel lavoro, ho visto che l'ha piazzata bene tutte e due, per cui ottimo. Bene, Eva! Chi è? Bobo, yeah! Buonasera circolari, chi è entrato? Bacchisio. Bacchisio sta uscendo, non è entrato. Un attimino di quel Rix, dai, riprendo fra un po'. Ehi, ciao, vai, vai, già sono qua. E beh, me lo beh. Eia, eia, eccoci qua. Boh, pure già per fare il posto ci ha posato. So comprato al giorno un poco a vedere l'antenna, la rubetta, però un vento si può essere al giorno, sono cominciato subito. Vai a fare apposta l'antenna, non le muovete mai niente, anche se è barriduta non li fate niente. E anche la mia non è barriduta, già se oscilla l'antenna, ma già è ferma. Non è che andare su lungo, a oscillare in punta oscilla un po', anche per vento, però già è sempre rimasto su lungo. E poi era barriduta che non aveva avuto l'altro tirante a tirarla dalla sua base, ma non me ne ha fatto niente. Tanto quando ne lavaro lì già un buruco, la metto più in alto, dove era prima. E gli si staffa, intanto due staffe mi pare si muove il burro, non hanno fatto presa al cimento. E dunque, chi andava a pulire? E quando lo posso vediamo come sarà il posto più dopo la prima. O la lascio lì, vediamo quando cambio il filo, già venne il tempo, va. Ho visto che mi ha mandato la foto Marino, ha fatto un bel lavoro, ha fatto un bel lavoro. E quella del PMR l'ha messa sotto la manto, fa la messa. Però c'è lo stilo in mezzo al radiale, però non gli fa niente. E speriamo che lo deve stazionare, però faccio un bel lavoro Marino, Allora, questa che me l'ha mandata il giorno che l'ha piazzata la foto, già l'avevo vista già. Già va bene dopo l'ha messa, già non tocca, gli hanno rifatto. E io praticamente ce l'ho sotto la manto, va spostata un metro più in avanti, la miglia. E già andava in una stessa, è più bassa, ma già funzionava, va. Già esce Roma stessi. Avevo messo lì perché col filo sono obbligato a arrivare giusto giusto al tavolo, capito? Volendo spostarmi dovrei fare attaccare il deviatore che già ce l'ho e mettere un pezzo di prolunga, ma già non andava così parava. Poi quando mi riputi lo stanzino, già glielo faccio la prolunga, il deviatore già ce l'ho. O se no lì che mi cambia anche il cavo lì tutto. Ma a quel punto dove ce l'hai tu va bene l'antenna. A voglia andare. Che li tocca i staffi. Quelle staffi non tocca niente, no, non li tocchi più, no. Cazzo, lì sono forti i staffi. E per cui a un di andare l'antenna, dove c'è lungo, cazzo. Sì, va bene, no, certo, se tu l'avessi messa, quella PMR l'avessi messa nel palo della macchina, sarebbe stato più l'ideale, però non ci avevi capo e così che l'hai messa dove l'hai messa adesso, va bene ugualmente. Sotto la macchina va distante un metro e qualche cosa, là sarà, dal palo della macchina, vai fino avanti al barbicchio, dimmo, là. E già sta bene lo stesso anche lì, a voglia che piglia. Ma un domani spostandola, devo fare un buco da su per il filo, le tracce tutte due fili, e poi devo fare un buco nel pavimento che me ne esce nel pianerotto e un buco a entrare nel ripostiglio, cioè buco da ripostiglio in fuori e c'è il pianerotto, lo capisco. E anche quando lo metto lì filo ce ne vuole pochissimo, mi viene un bel più corto il filo. Dunque mi basta il filo che avevo comprato, quello che mi avevi portato tu, per tutti e due, capito? E perché lo stanzino praticamente è sotto l'antenna. E lì vado a fare un buco col trappolo, cos'è? E ci fili cavo, boh. è più vicino, sì, per cui va più bene anche, capito? E non c'è il tifino volante, sì e là, capito? E già si può fare. Capito, mi piace la fare, se già 2 anni bene non l'hai mai fatto. Però, capito, mi piace la fare, se ne hai cala. La di chi mi pongo già mi posso tutto. Io devo fare un buco, 2 buchi, 3 buchi devo fare con lo trappo, un po' questa punta grossa che faccio longa, una volta di un caso sta dibattendo un filo, un po' un po' di silicone ed è il zappo buco, ci non entra un animale nel nulla e mi viene proprio dove c'ho il ripostiglio, dici dove devo mettere quella mensola e li piazzo lì. Ma il filo ce ne vuole pochissimo, dunque, a buia, e filo buono, a volante non ne vedi niente, solo che tu ti fai l'antenna, tutti e due entrano in un muro, sotto l'antenna, Matti. Dunque ce n'è poco o niente fuori, filo. Ah, puzza buccia, se io fare 3 buchi, niente. Ma sai, va a fare 3 buche, non è un muro grosso, no, che sarà mezzano, così che ci sa buccarlo. Due sono forati, sono, però c'è la punta da 12 che è longa, avranno solo questa 30 centimetri longa. Comunque già voglio buccare, ha buccato già i nomi, un laggio passati avanti, ha voglia che ha buccato, e subito buco. No, uno è sopra, devo buccare un pavimento in terra, nel vano ascensore, no? E chi mi devo buccare in terra vicino al muro? Così ne si dà la bobita e non che lo pianerottolo, capisci? E poi buco dal pianerottolo dentro allo santino, però non voglio buco dallo santino in fuori, così vedo dove esce, capisci? Vicino alla bobita. Si fuggetti mentre appena mi bacio e andava sì. Si è avvantaggiato che da voi verrai sotto, capito? Per cui andava il capo, già ce l'hai nuovo e per cui si può fare benissimo. A voi c'è 30 metri vaggio sempre, e sempre nello scaffale del computer, della tavola. Sono salito e visto pure l'IBL che ha pubblicato da internet in bacchinette. La dico, non posso, li piazzo tutti e due. Posso uno e l'altro, e si sa chi. E chi dice che già va, chi ci vede in bocca e lui dà in facciata. A che la giambate i figli, passano dall'angolo della finestra il pianerottolo, buccato di traverso e li entro lì, li ho entrati lì e escono qua in cucina, sopra i pinsili. E non ma così vede ne pure le figli. Oh, e fuori a casa non ne ho io. Perché da me entrano dalla fumaiola della cucina, no? Nel tubo della cucina, il vapore. Siccome quel tubo l'avevo otturato, l'avevo e ci ho fatto scendere i capi da lì. Quindi dalla televisione, 3 capi della televisione e 2 capi, una della Mantova e uno del PMR, che passano tutto dentro la fumaiola e me ne escono su vicino all'abito. E dall'abito l'ho messo una, come si chiama, quella guida in classica, e 12 metri di cavo ci ho messo, e prima ne mettevo 15 e 25 metri. No, a me finivo una lana da sopra e qui sotto un 7 metri, penso, una cosa del genere, sia una che l'altra. Noi che c'è tutto questo tragitto, capito? Mettendolo, dove l'ho detto, nel ripostiglio. E se è sopra, allora praticamente rimangono tutti e due sopra al ripostiglio, l'antenna. Una rimane la mantova dove c'è il ripostiglio e l'altra 1 metro più avanti, vicino al barabito. Ma dal vicino, venivo poco prima. E quando fai quel lavoro ce la metti sul palo della mancia, va più bene, ricevi più bene e sei più tranquillo, in un punto solo. E fai come ha fatto Marino, capito? E io non ce l'ho così. Io ce l'ho sul tubo della mantova, per cui non ingombra altri posti, capito? Va bene, se così dovresti fare tu, va più bene, va. Ehi, era per sulla capurunie, mi state la matta sigosa. Una volta che buco sopra, a entrare nel vano ascensore, il lupino non lo vedi mai pure, vedi se lo rubessi che fa davanti e da poi entra lui. Poi una volta che dentro buco il pavimento e discendo nel pianerottolo, dal pianerottolo entro trasciugato allo ripostiglio. Tutto vato, ma noi che veniamo gli assai, che ne vuole pochissimo, ma già va bene. L'unico posto più vicino all'antenna è così. E anche lo spazio ce l'ho dove mettere le radio qui, perché ci ho messo quel mobile. E dunque a voi gli armati di lui, c'ho tutto il piano del mobile anche, qui ci metto la mensola, a voglia. Eia. Ma vediamo un po', Tore! Oh, Tore, lascia andare a accompagnare il nipote alla partita. Ma gli arrivata subito là. Si risoffendi no, che ti cosi, ti dormio, cosa soffendi, da stamattina. Pure un andai tu penso che vi siano i romassessi. A chi da voi a giugno mi paro, a maggio finisce, e poi ricominciano a settembre. Infatti a maggio finiscono, mi sembra. Mi sembra che finiscono a maggio, per cui. Avrai sempre da farati da Giuburu, cazzo. Se la batte e all'altra, per cui sempre occupato. È sempre in giro a fare commissioni, a regare i butti, già la giornata che fa, ma stessa, a fare allugare gli ossi, già per la pignata la diggia, a su che ciocca, Al macro lo si trombe, si fa sempre in movimento, si scende dal sogno, si non trombi troppo, la sembra fa. Meglio così, già è pari in buzzi, sempre ma fa bene in casa sua, già va bene lo stesso. E tanto cosa abbiamo fatto? È andata a Romacchino, ho burato così, ho giorno con un cane, a Romacco anda, gira un po'. Aspetta che mi sono andato. Ehi, eccoci qua, mica faccio aprire il vento. Cazzo, che c'hai burato lì di nuovo, cazzo, per portare la bassa all'altra, cazzo. Vediamo, non rimane anche il braccio, cazzo, ha già fatto le macchine sotto, già. Un bel evento ha fatto, e penne. Già si intende, no, che in cucina, già si sente, già. E chi ha già sarrato giusto pure in veranda. E cosa sai, quello va con la mezzo, non entra di ciurubiuaro. E allora l'ho abbassata, era un po' aperto. Sì, ha sbaccato tutti, da mezzo lì. Era un tomato alla biccio. Allora ci sbaccato tutto, era chiaro di freddo. Ah, che freddo non venne, capito? Per cui... Però fai un bel evento, grazie a tutto come fa la giostra, ancora fa vedere l'antenna. Non li muove neanche il vento, è tranquillo, però è forte, ma la giusta. Se quando entri in bagno si sente un rumore di vento, cazzo, anche rimane proprio sopra il bagno l'antenna, capito? E si sente il rumore. No, che si intende quando la luce gli fa più silenzio. Si intende l'antenna. Prima quando va via che si gavetti in acciaio e tiranti, faria l'arpa, faria suonenti, faria proprio la musica, come te suonerà l'arpa, no? Dron, dron, dron, dron. Adesso no, si sente solo frucciando il vento, con i cannelli non lo fazzi. l'arma, con i capelli già lo faceva. Sì. Ah, tu filai la droga l'accessore, filai, capito? Perché c'era proprio la fumaiola che passa la testa romagna, la fumaiola, capito? Ecco, per usare in tempo quando entra in bagno. No che no, non si intende, ma no, se entra in bagno si intende il rumore, cazzo. E per però non è un rumore forte, però già si intende, là. No, quando va via lì dinanti in acciaio, era pure fatti chiusi, infatti già, speriamo non mi dica niente, la niente. Quando si lavava intumi, la notte, pariva su niente l'arpa, e poi forte il rumore. Non è che lo faceva piano, tutta la notte cadeva su niente la musica. E poi speriamo non si dia usare nessuno. Cioè non mi ha detto mai usare nessuno, però era fastidioso. A chi canto tutte le volte per la vento. Intendi che c'è la musica a 30 di notte, da quella intendi di più. Beh, a me pure mi fate più rumore quando fa via le tirate d'acciaio. Prima per abbiamo l'acciaio e un Mario. Siccome ultimamente fa tirati qua e tirati di musica avanti, un bottone che andai, capito? Però quando fa le tirate d'acciaio, che ci pari che di filmi di quando per che temporale noi i filmi cazzo ci facevi un rumore o ci facevi un rumore in ogni noi ci giocava un burubaviccio per carezzare cazzo ma era più silenzioso cazzo anche l'acciaio creava delle risonanze, capito? Già lo so fare questa musica, già lo so cugia, per carità. No, e poi ne abbiamo levato anche acciaio di 13, erano tutti rugginosi, si sono tutti arrugginiti, vabbè erano un sacco d'anni, noi eravamo un avino, erano un bel tempo, e facevano anche schifo, anche se erano gli effi di zenni, e se ti toccavi con la mano ti bucava pure le mani. Ehi, ehi. Ok, grazie a te, mi da volontare. Per cui lascio acceso, però non posso parlare perché sta venendo gente, capito? E per cui lascio acceso. Se ce ne andassi bisogna entro, ok? Vai, state da voi. L'ultima convinti nel chiuso. Ho già risolto il 25, vai. Ok.